ad alta voce. Anita Caprioli legge Patricia Highsmith. La scrittrice. Ha una memoria di ferro per quanto riguarda il sesso. È al terzo matrimonio. Intanto ha sfornato 3 figli, ma nessuno dell'attuale marito. Il suo proclama è: ascoltate, ecco il mio passato, è più importante del presente. Lasciate che vi dica che razza di porco era il mio ultimo marito o amante. Il suo passato è come un pasto mal digerito, forse indigeribile, le sta sullo stomaco. Si vorrebbe che riuscisse semplicemente a vomitarlo e dimenticarlo. Riempie fogli su fogli con la storia di tutte le volte che si è infilata nel letto del marito, o di quante volte l'ha fatto la sua rivale, o di tutte le notti passate a camminare avanti e indietro insonne, negandosi virtuosamente anche la consolazione di un bicchiere mentre il marito stava con l'altra donna apertamente, eccetera, e al diavolo quello che pensavano amici e vicini. Dato che amici e vicini erano per lo più incapaci di pensare o di tutto disinteressare alla questione, quello che pensavano non aveva nessuna importanza. Verrebbe da credere che fosse proprio quello il momento buono per una scrittrice di creare pensiero e opinione pubblica dove non c'erano. Ma la nostra di scrittrice non si dà la pena di inventare. Il suo racconto è nudo e crudo come un sospensorio. Dopo che 3 amiche hanno letto e lodato il manoscritto, dicendo che è proprio come la vita vera, dopo che i nomi dei protagonisti maschi e femmine sono stati cambiati 4 volte a tutto detrimento dell'estetica del manoscritto, e dopo che un amico, un possibile amante, ne ha letto la prima pagina e l'ha restituito dicendo di averlo letto tutto e di trovarlo fantastico, il romanzo viene mandato a un editore. Segue un immediato cortese rifiuto. La scrittrice decide di muoversi con maggior cautela, si assicura qualche entrée tramite conoscenze nell'ambiente editoriale, vaghe e titubanti raccomandazioni ottenute a suon di colazione e cene innaffiate da abbondanti bevute. I ripetuti rifiuti non la scoraggiano. «Lo so che la mia storia è importante», dice al marito. «Altrettanto si può dire di quel topo. Un lui o una lei, non so», risponde il marito. «È un uomo paziente, ma ora è praticamente arrivato al limite della sopportazione con quella storia». «Quale topo?» «Tutte le mattine, quando sono nella vasca da bagno, parlo con un topo», risponde il marito. «Credo che il suo problema sia il cibo. Sono in 2. Vengono fuori dal buco a turno, c'è un buco nell'angolo della stanza da bagno, e io vado a prendergli qualcosa da mangiare in frigorifero». «Stai divagando. Che cosa ha a vedere tutto questo col mio manoscritto?» «Volevo solo dire che secondo me quei topi si preoccupano di una questione veramente importante, il cibo. Non dell'infedeltà del tuo ex marito e di quanto ti facesse soffrire, perfino in posti stupendi come capre o rapallo, il che mi fa venire un'idea». «Quale?» chiede lei un po' ansiosamente. Il marito sorride per la prima volta da parecchi mesi. Sta sperimentando alcuni secondi di pace. In casa non c'è il solito ticchettio della macchina per scrivere. Sua moglie lo sta guardando davvero, sta aspettando di sentire cosa ha da dire. «Indovina un po', sei tu quella dotata di fantasia in famiglia, stasera non aspettarmi per cena». Poi se ne va di casa, portandosi dietro l'agenda e, ottimisticamente, un pigiama e lo spazzolino da denti. Lei va alla macchina per scrivere e resta a fissarla, pensando che la storia di quella serata potrebbe costituire materia per un altro romanzo. Forse dovrebbe stracciare quello a cui ha lavorato per tanto tempo e cominciarne uno nuovo. Quella sera stessa, subito? Chissà da chi sarà andato a passare la notte lui. La signorina Filippettini. Teodora, o Tea come la chiamavano, era una signorina nata. Lo dicevano tutti quelli che l'avevano vista durante i primi mesi di vita, quando veniva portata in giro in una carrozzina foderata di satin bianco. Dormiva quando doveva dormire, poi si svegliava e sorrideva a tutti. Non si bagnava quasi mai. Fu la cosa più facile del mondo convincerla a far pipì e popò nel vasino e imparò a parlare davvero molto presto. Cominciò a leggere ad appena 2 anni. Si mostrava sempre molto beneducata. A 3 anni cominciò a fare la riverenza quando veniva presentata alla gente. Gliel'aveva insegnata sua madre, naturalmente, ma per Tea l'etichetta era come l'acqua per una anatroccola. «Grazie, è stato incantevole», diceva disinvolta a 4 anni con una riverenza, accomiatandosi dopo una festa di bambini. Ritornava a casa con il vestitino inamidato, pulito e lindo, come quando l'aveva indossato. Si prendeva gran cura dei propri capelli e delle proprie unghie. Non era mai sporca. Guardava gli altri bambini correre, giocare, far torte di fango, cadere, sbucciarsi le ginocchia e pensava che erano degli stupidi. Lea era figlia unica e altre madri più impegnate di quella di Thea con due o tre rampolli cui badare lodavano l'obbedienza e la pulizia di Thea e Thea adorava essere lodata. Thea si crogiolava anche nelle lodi che riceveva da sua madre. Thea e sua madre si adoravano. Tra i coetanei di Thea, l'età dei giochi di gruppo cominciò verso gli 8, i 9 o i 10 anni, se si poteva usare il termine gruppo per definire la banda che si aggirava per il quartiere su biciclette e pattini a rotelle. Era un quartiere piccolo borghese, ma se un bambino non si univa al gioco di poker pazzo nel garage di uno dei genitori o non partecipava alle passeggiate senza meta in bicicletta dietro il capobanda attraverso le strade del quartiere residenziale, quel bambino non si integrava. Thea non era affatto integrata per quanto riguardava quella banda. «Non me ne importa niente perché non voglio essere una di loro, comunque», diceva sua madre e suo padre. «Thea bara al gioco, ecco perché non la vogliamo», disse un ragazzo di 10 anni al padre di Thea durante una delle sue lezioni di storia. Il padre di Thea, Ted, insegnava in una scuola media locale. Sospettava la verità da molto tempo, ma aveva tenuto la bocca chiusa sperando per il meglio. Per Ted, Thea era un mistero. Com'era possibile che un tipo come lui, del tutto normale, abituato a tirare la carretta, avesse messo al mondo quella donnina in erba? «Le bambine nascono donne», disse la madre di Thea, Margot. «I maschietti invece non nascono uomini, devono imparare a diventarlo. Le bambine hanno già un carattere formato». «Ma questo non è carattere», disse Ted. «È astuzia, il carattere non si forma subito, ci vuol tempo, come per gli alberi a crescere». Margot sorrise con tolleranza e Ted ebbe la sensazione di star parlando come un uomo dell'età della pietra, mentre sua moglie e sua figlia vivevano nell'era dei jet. Lo scopo principale della vita di Thea sembrava essere quello di far del male ai suoi coetanei. Aveva raccontato una bugia su un'altra bambina riguardo a una storia con un ragazzino e la piccola aveva pianto a lungo e si era quasi presa un esaurimento nervoso. Ted non ricordava i particolari, anche se aveva seguito la storia fin dall'inizio, dato che Margot gliel'aveva raccontata per sommi capi. Thea era riuscita a far cadere sull'altra bambina la colpa di tutto quanto, ma Machiavelli non avrebbe saputo far di meglio. «Semplicemente Thea non è una ruffiana», disse Margot. «Comunque ha Greg con cui giocare, non è sola». Craig aveva 10 anni e viveva 3 case più su. Quello di cui Ted non si rese conto per un po' era che anche Craig veniva messo all'ostracismo dagli altri bambini e per la stessa ragione. Un pomeriggio Ted vide uno dei ragazzi del quartiere fare un brutto gesto in minaccioso silenzio mentre incrociava Craig sul marciapiede. «Stronzo!» rispose prontamente Craig. Poi partì al trotto in caso l'altro avesse deciso di inseguirlo, ma il ragazzino si limitò a girarsi e a dire «E tu sei una merda come Thea!» Non era la prima volta che Ted sentiva i ragazzi del posto usare quel linguaggio, ma di certo non gli capitava spesso e ne fu colpito. «Ma che cosa fanno tutti soli Thea e Craig?» chiese Ted a sua moglie. «Oh, fanno passeggiate, non so», disse Margot. «Suppongo che Craig si sia preso una cotta per lei». Ted ci aveva pensato. Thea possedeva un'avvenenza da zuccherino che le avrebbe assicurato un'orda di ammiratori non appena avesse raggiunto l'età giusta e naturalmente stava già cominciando a civettare. E Ted non aveva paura che Thea si comportasse in modo scorretto, perché le piaceva farsi corteggiare, ma era molto restia a concedere qualcosa, un classico. Quello che facevano insieme Thea e Craig era osservare la costruzione di un rifugio, un tunnel e 2 fuochi in un terreno abbandonato a circa 1 miglio di distanza. Thea e Craig ci andavano in bicicletta, si nascondevano nei cespugli e si arrabbiavano. Una dozzina circa di ragazzi della banda lavoravano come schiavi a portar via secchi di terra, a raccogliere legna per il fuoco, a preparare le patate arrosto con sale e burro, che costituivano lo scopo di tutta quella fatica verso le 6 di sera. Thea e Greg avevano intenzione di aspettare che gli scavi e gli altri lavori arrivassero alla fine, per poi distruggere tutto quanto. Nel frattempo Thea e Greg escogitarono quel che definivano un nuovo ballo, un'espressione in codice per i loro tiri mancini. mandarono un annuncio dattiloscritto alla più grossa chiacchierona della scuola, Veronica, dicendo che una bambina di nome Jennifer avrebbe dato una festa di compleanno sorpresa in un determinato giorno e pregandola di dirlo a tutti quanti, tranne che a Jennifer. La lettera doveva sembrare scritta dalla madre di Jennifer. Poi Thea e Craig si nascosero dietro la siepe e guardarono i loro compagni arrivare a casa di Jennifer, tutti vestiti a festa, quasi tutti con un regalo, mentre Jennifer li riceveva con imbarazzo sempre crescente sulla porta, dicendo di non sapere niente della festa. Dato che la famiglia di Jennifer era coinvolta, i bambini si erano aspettati una serata eccezionale. Un giorno, quando il tunnel e il rifugio, i fuochi e le nicchie con le candele furono pronti, Thea e Craig finsero di avere il mal di pancia e non andarono a scuola. Come avevano stabilito prima, verso le 11 di mattina, uscirono di soppiatto con le rispettive biciclette. Andarono al rifugio e si misero a saltare forsennatamente sopra il tunnel fino a demolirlo. Poi distrussero i fuochi e sparpagliarono in giro tutta la legna da ardere raccolta con tanta cura. Trovarono perfino la riserva di patate e di sale e la buttarono nei boschi. Poi tornarono a casa in bicicletta. Due giorni dopo, un giovedì, giorno di scuola, Craig venne trovato dietro un boschetto di olmi sul prato di casa Knobel, pugnalato a morte alla gola e al cuore. Aveva anche delle brutte ferite alla testa, come se fosse stato ripetutamente colpito con grossi sassi. Le analisi delle ferite da coltello dimostrarono che erano stati usati almeno 7 coltelli diversi per pugnalarlo. Ted fu profondamente scosso da quella storia. Ormai aveva già sentito parlare della distruzione del tunnel e del rifugio. Tutti sapevano che Thea e Craig non erano andati a scuola il martedì, giorno in cui era stata compiuta la vandalica incursione. Tutti sapevano che Thea e Craig erano sempre insieme. Ted temeva per la vita di sua figlia. La polizia non riuscì a incriminare nessuno dei membri della banda in particolare per la morte di Craig e non poteva certo accusare un intero gruppo di assassinio o omicidio colposo. L'inchiesta venne chiusa con un avvertimento ai genitori di tutti i bambini della scuola. «Solo perché io e Craig eravamo assenti da scuola nello stesso giorno, non vuol dire che siamo andati insieme a distruggere quello stupido tunnel», disse Thea, un'amica di sua madre e madre di uno dei membri della banda. Thea sapeva mentire come un'imbrogliona incallita. Era difficile per un adulto smascherarla. E così l'età dei giochi di gruppo per Thea finì con la morte di Craig. Arrivarono poi gli spettacoli, le occasioni di intrigo e tradimento, insieme a un flusso costante, mutevole, di ragazzi dai 16 ai 20 anni, alcuni dei quali non duravano più di 5 giorni con Thea. Prendiamo commiato da Thea mentre è seduta ad agghindarsi davanti allo specchio all'età di 15 anni. Questa sera è particolarmente felice perché la sua rivale più temibile, una ragazza di nome Elizabeth, ha appena avuto un incidente di macchina e si è rotta il naso e la mascella, oltre a ferirsi a un occhio, e quindi non sarà mai più la stessa. Sta arrivando l'estate con tutte quelle feste da ballo in terrazza e quei party in piscina. Si dice in giro che forse Elizabeth dovrà addirittura mettersi la dentiera, tanti sono i denti che si è rotta, ma l'occhio rovinato è la cosa che si nota di più. Thea, comunque, sfuggirà a ogni catastrofe. C'è una divinità che protegge le signorine perfette come Thea. La suocera silenziosa. Questa suocera, Edna, conosce tutte le storielle sulle suocere e non ha nessuna intenzione di diventare il bersaglio di battute trite e ritrite, né di cadere nelle trappole di cui è tanto abbondantemente cosparso il suo sentiero. Prima di tutto, vi dico che sua figlia è il suo genere, quindi deve stare doppiamente attenta. Non si sognerebbe mai di criticarli. I due ragazzi potrebbero tornare a casa ubriachi, fradici, Edna non farebbe alcun commento. Potrebbero fumare erba, in realtà lo fanno qualche volta, potrebbero litigare e spaccarsi in testa tutte le stoviglie, e Edna non aprirebbe bocca. Ne ha sentite abbastanza di storie di suocere invadenti e ha deciso di tenere sempre la bocca chiusa. In effetti la cosa più strana di Edna è proprio il suo silenzio. Dice «sì, grazie» alla seconda tazza di caffè e «buonanotte, dormite bene», ma niente di più. Un'altra cosa notevole di Edna è la sua parsimonia. non sospetta nemmeno lontanamente che dia tanto sui nervi a Laura e Brian, perché anche loro cercano di prendere le cose per il verso giusto, di essere gentili, e non si sognerebbero mai di dirle che la sua parsimonia li irrita terribilmente. Intanto risparmiare è ovviamente un gran piacere per Edna. Esibisce un'enorme palla di spago recuperato con lo stesso orgoglio con cui altre suocere esibirebbero una trapunta fatta con le loro mani. Mette ogni pezzetto di buccia d'arancia in un sacchetto di plastica destinato al mucchio dei rifiuti organici. Costerebbe a Laura e Brian almeno $300 al mese, ma in un appartamentino tutto suo. Edna ha un po' di soldi coi quali contribuisce all'andamento della casa, ma se vivesse sola, Laura e Brian sarebbero costretti a spendere per lei molto più di quanto spendono ora. E così niente da fare. Edna ha 57 anni. È magra e segaligna, coi capelli corti e ricciuti sale e pepe. A causa della sua abitudine di affannarsi sempre in giro per la casa, ha passo e portamento curvi. Non sta mai in ozio e di rado la si vede seduta. Quando sta seduta di solito è perché qualcuno gliel'ha chiesto, e allora si butta in una poltrona e intreccia le mani con espressione attenta. Tiene quasi sempre qualcosa di utile sui fornelli, una pentola di salsa di mele, per esempio. Oppure ha appena cominciato a pulire il forno con qualche prodotto speciale, il che significa che Laura non potrà usarlo per almeno un'ora. Laura e Brian non hanno bambini, ancora, perché sono persone previdenti, e in fondo ai loro pensieri c'è sempre il problema di come installare Edna comodamente e graziosamente da qualche parte, anche a spese loro, e poi dedicarsi al compito di allevare dei figli. La loro casa è un affare a due piani in una zona residenziale, a 25 minuti di macchina dal centro della città, dove Brian lavora come ingegnere elettronico. Ha buone speranze di carriera e studia ancora a casa nel tempo libero. Ci pensa Edna a curare il giardino e a falciare il prato, così Brian non ha troppo da fare durante il fine settimana. Ma ha la sensazione che Edna origli alle pareti. La stanza di Edna è contigua alla loro. C'è anche una soffitta non riscaldata. Nella soffitta che Laura e Brian trasformerebbero volentieri in un locale abitabile, Edna tiene la sua raccolta di barattoli vuoti, scatole di cartone, cassette della frutta, vecchie scatole e carte natalizie e altre cose che potrebbero far comodo un giorno. Brian non può metter piede lassù senza buttar per terra qualcosa. Vuole dare un'occhiata alla soffitta per vedere se sarebbe difficile isolarla, ma chissà come la soffitta è diventata proprietà di Edna. «Se solo dicesse qualcosa, almeno una volta ogni tanto», disse un giorno Brian a Laura. «È come vivere con un robot». Laura capiva. Aveva assunto un modo di fare ultra gentile e comunicativo con sua madre nella speranza di farla parlare. «Questo lo metto qui?» «Mm-hmm. E il portacenere andrà benissimo laggiù», diceva Laura, affaccendandosi per la casa. Edna si rideva con aria tesa, approvando, e non diceva niente, anche se si affrettava ad aiutare. Quell'atmosfera stava facendo impazzire Brian. Gli capitava spesso di imprecare sottovoce. Una sera lui e Laura andarono a un party nel quartiere e Brian ebbe un'idea. Espose a Laura il suo piano e lei si dichiarò d'accordo. Aveva già bevuto qualche bicchiere e Brian gli suggerì di berne un altro. Dopo il party, Brian e Laura andarono a casa, si svestirono in macchina, risalirono il vialetto fino alla porta d'ingresso e suonarono il campanello. Aspettarono a lungo, ridacchiavano, erano le due passate e Edna era a letto. Alla fine Edna arrivò e aprì la porta. «Ciao, Edna!» disse Brian entrando a passo di valzer. «Sera, mamma!» disse Laura. Orripilata, sconvolta, Edna sbatté gli occhi, ma si riprese subito quanto bastava per mettersi a ridere e sorridere educatamente. «Beh, non sei sorpresa, di qualcosa!» gridò Brian. Ma dato che non era ubriaco quanto Laura, afferrò un cuscino del divano e se lo appoggiò all'addome per coprire la propria nudità, odiandosi mentre lo faceva, perché sembrava proprio che gli fosse venuto a mancare il coraggio di andare fino in fondo. Laura stava eseguendo un assolo di ballo del tutto disinibita. Edna era svanita in cucina. Brian la seguì e vide che stava preparando del caffè solubile. «Ascolta, Edna!» urlò. «Potresti almeno parlare con noi, no? È semplice, non ti pare? Ti prego, per l'amor di Dio, di qualcosa!» Teneva ancora stretto il cuscino, ma gesticolava col pugno della mano libera. «Davvero, mamma!» disse Laura dalla porta. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Era isterica e decisa a portare avanti la provocazione. «Parla!» «Penso che siate uno spettacolo penoso, se volete proprio che ve lo dica», disse Edna, la frase più lunga che avesse pronunciato da anni. «Ubriachi e anche nudi, mi vergogno di voi, tutte e due. Laura, prendi un impermeabile dall'atrio e mettiti addosso qualcosa. E tu, mio genero?» Edna stava strillando. L'acqua cominciò a bollire nel bollitore. Edna passò accanto a Brian come una furia e scappò di sopra in camera sua. Né Brian né Laura ricordarono molto delle ore che seguirono. Se pensavano di aver rotto per sempre il silenzio di Edna, scoprirono presto di essersi sbagliati. La mattina dopo, domenica, Edna fu più silenziosa che mai, anche se sorrideva leggermente, quasi come se niente fosse successo. Brian andò a lavorare il lunedì come al solito, e quando tornò a casa, Laura gli disse che Edna non si era stata da fare in modo insolito per tutto il giorno, sempre in perfetto silenzio. «Credo che si vergogni», disse Laura. «Non ha nemmeno voluto far colazione con me». Brian scoprì che Edna aveva accatastato la legna da ardere, aveva pelato le mele verdi, aveva cucito, aveva pulito gli ottoni e aveva frugato in un grande bidone della spazzatura alla ricerca di Dio solo sapeva cosa. «Ma che cosa sta facendo adesso?» chiese Brian con una punta di allarme. Nello stesso istante capì. Edna era in soffitta. Ci fu uno scricchiolio del pavimento di legno, un clunk, mentre Edna deponeva una scatola piena di barattoli vuoti o qualcosa del genere. «Proviamo a lasciarla in pace per un po'», disse Brian, sentendosi coraggioso, risoluto e pieno di buon senso. Laura si dichiarò d'accordo. Non videro Edna a cena, andarono a letto. Edna lavorò tutta la notte, a giudicare dai rumori sulle scale e in soffitta. Verso l'alba si sentì uno schianto tremendo, una cosa che Brian aveva sempre temuto accadesse. Il pavimento della soffitta era fatto di canniccio, dopo tutto, inchiodato alle travi. Edna precipitò attraverso il pavimento, insieme a barattoli, cassette, conserve, sedie a dondolo, un vecchio divano, un baule e una macchina per cucire. Brian e Laura, che si erano rannicchiati nel letto, saltarono su immediatamente per andare a soccorrere Edna. Ma prima ancora di toccarla, capirono cos'era successo. La povera Edna era morta. Forse non era morta per la caduta, ma era morta. Questa fu la fine piuttosto rumorosa della silenziosa suocera di Brian. Anita Caprioli ha letto Patricia Highsmith, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it